sarai sempre in pace, il lieto del tuo gioir rimane audace. Orlando, ahimè, io son perduto. Rendi pur grazie al ciel chi erme sei, col tuo sangue vorrei. Che far vorresti? Non temer, lusinga or siate meco. Fugaci contenti, impallidisci, ti credi crudeltà, sfinge d'inganni. Tu non conosci Orlando, chi sia il garzon di cui geloso sei. D'angelico la penna, egli germano, ormai respiro dei. Così ingrato mi insulti, e così temi, del mio sincero amor, della mia fede. Ove trascorsi? Oh, come scaltro orfinge! Senti, senti, mio bene! Sono una sfinge, una tigre, aggiungi per caparra d'amor qualche altra offesa! Io, tigre, ventitore, tu me lo sei, con questo vano tu di mor geloso! Tu mi impetrai il perdono, non lo potrei, se il tuo rival già sono! Questa bella mano, cui io stringo, caro, piangi per lui. Rimera, io fingo. Se gli t'offese, a me l'offesa d'ora, vedi lo che pentito te ne chiede perdono. Bella, perdono. Temesti di mia fede, e ancor non sai che tu hai il cuore. Destra. Ella ti è pena di mia candida fede. Angelica, tacchetta, venge pura, non lo vedi? Ai, che tormento! Mio.